Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi proveremo, ci sforzeremo di parlare anche d'altro e non solo di Balotelli, razzismo e di tutto quello che c'è intorno, anche se l'interesse per questo argomento, ma ripeto per tutto quello che c'è intorno, che c'è a monte più che a valle, continua a rimanere altissimo e lo valuto dal numero incalcolabile di mail che sono costretto con piacere a leggere ogni mattina e poi ogni pomeriggio del programma, dagli sms che arrivano, dalle vostre richieste di intervento in diretta, ma anche dall'attenzione che quotidiane televisioni, insomma, che ogni apparato mediatico continua a dedicare a questa vicenda e ai suoi risvolti. Oggi lo faremo soprattutto con una documentazione, cioè cercando di aprire un pochino il ventaglio delle opinioni che si sono registrate e continuano a registrarsi su questo tema, sforzandoci, appunto, ripeto, di voltare pagina, e cioè nella seconda parte del programma, anzi nella tra non molto, per esempio, di dare un'occhiata al calcio giocato, a quello che si giocherà da stasera in Coppa Italia, Juventus-Lazio oggi e Inter-Sampdoria domani, ma a quello soprattutto che si è giocato ieri sera, perché sono state due partite a modo loro abbastanza, insomma, a modo loro storiche forse, un Liverpool-Arsenal 4-4 nel campionato inglese e la rimonta del Real assolutamente rocambolesca contro il Getafe. Due partite che, insomma, vale la pena di farvi raccontare dal nostro Fabio Tavelli. Cominciamo da una serie di opinioni che, ripeto, vale la pena come di registrare. La prima è quella di, sulla vicenda che sapete, la prima è quella di Michel Platini. La Federcalcio ha preso le sue responsabilità. Noi, al livello dell'UEFA, che è stato adottato dal Comitato Esecutivo, noi proveremo da oggi in poi, quando ci sono delle cose così sulle campi da calcio, di chiudere la partita. Insomma, di smettere di giocare per una decina di minuti, dopo di fare degli annunci, di ricominciare, e sì, la cosa continua così, proveremo di chiudere la partita. Bisognerà avere del coraggio di farlo. Dopo tutto quello che è fatto dopo, sono molto domande difficili, pericolose, mediatiche, sono dei problemi nazionali, sono dei problemi di società. Quello che dobbiamo fare è di sospendere la partita quando ci sono questi atti lì sulle spalti. Questo era il presidente dell'UEFA, Michel Platini, su a proposito di una linea che sta prendendo, che si sta facendo strada sul comportamento da adottare in prossime occasioni. È inutile illudersi che non ce ne siano altre, anzi. La spiegazione del presidente della Juventus, Cobolli Gigli, sull'iniziativa di presentare ricorso. Abbiamo ammesso sicuramente che questi corri sono un fatto incivile. Abbiamo fatto le nostre scuse in generale all'Italia e al giocatore Balotelli, dopodiché abbiamo anche deciso di ricorrere, perché il ricorso è un diritto che hanno le società, tutto qua. Le sentenze sono un dovere, il ricorso sono un diritto. Qualsiasi tipo di giustizia, chi non facesse un ricorso sbaglierebbe, perché la società deve cercare di far valere i suoi diritti, non per avere zero sentenze, ma per avere una sentenza che noi riterremmo più equa a quelle che sono le nostre colpe, più coerenti con quelli che sono stati i giudizi del passato. Però con molta tranquillità, se il ricorso non sarà accolto, andrà bene lo stesso. Solo che il razzismo sia una cosa vile, naturalmente. Penso che ci sia la necessità anche di adottare delle modifiche del regolamento. Ho sentito parlare in questi giorni di dare all'arbitro la possibilità di fare una serie di cose. Non sta a me dire cosa, ma penso che questo sia una cosa importante. L'opinione di Massimo Moratti. Ogni società giustamente può fare ricorso a seconda di quella che è la loro sensazione, quindi questo non posso entrare in questa cosa. Io credo che così quello che è successo mi ha fatto scattare il primo giorno, poi capisco che la società abbia le sue ragioni e reagirà per come deve reagire. Quello che abbiamo visto l'altro giorno poteva far pensare che sia anche una soluzione, o se non altro quella di chiamare i capitani e cercare di capire come interrompere una situazione di quel genere. Ripeto, questa non è una cosa nei confronti della Juve o di una società precisa, quello che è successo l'altro giorno è come fatto in sé, che è un fatto antipatico, quindi come tale trovare una regola che consenta la protezione delle, di chi è coinvolto. Non c'è ragione di una tensione, non è rivolto alla Juve, ma è rivolto al fatto in sé. Torto noi come torto loro, insomma, benché noi allora mi ricordo che ci mettiamo dalla parte di Zoro. Sono due cose diverse, parallele. Uno è l'atteggiamento del giocatore, che può sembrare simpatico, antipatico, ma... e l'altro è colpirlo invece su questo fatto qui. Uno può insultarlo, ed è brutto anche quello, su altri fattori. Questo fattore è un insulto che invece va molto oltre. Sì, il giocatore dà fastidio perché ti dà l'idea che ci sia una malattia all'interno di questo discorso. Questi erano i pareri registrati e che avete potuto ascoltare dalla viva voce di tre protagonisti, i due presidenti delle due società e il presidente dell'UEFA. Adesso vorrei invece proporvi delle opinioni scritte, quindi dovrete accontentarvi della voce mia. Un'agenzia uscita da poco ed è un commento di Marcello Lippi. Non è vero che non si riesce a uscire dal razzismo, ha detto Lippi. A parer mio questo problema è molto minore rispetto a come è stato presentato. Se il problema fosse puramente razzista, non vedo perché non avrebbero dovuto gridare qualcosa a Montari o a Vieira, che hanno il colore della pelle esattamente uguale a Balotelli. Evidentemente ci sono altre cose. Torino non è mai stata razzista, ci sono cori nei confronti di calciatori bianchi che sono molto peggio di altri cori. È un problema di ignoranza, di cultura, in certe situazioni si vuole offendere qualcuno indipendentemente dal colore della pelle. Ripeto, ha concluso Lippi, non credo ci sia una volontà razzista da parte di chi fa quei cori, ma piuttosto una volontà di offendere qualcuno per vari motivi che si vengono a creare nel contesto della partita. Questo è l'allenatore della nazionale italiana ed è anche un uomo che ha rappresentato molto nella storia della Juventus. Ha rappresentato per esempio 5 dei più recenti scudetti della Juventus da allenatore. Se avete ascoltato bene le sue parole, ve ne propongo altre adesso, che sono invece firmate da un uomo che di scudetti nella storia della Juventus ne rappresenta 14, 5 da giocatore e 9 da presidente. Si chiama Giampiero Boniperti, ha firmato stamane sulla Gazzetta dello Sport il seguente breve articolo. Non c'ero sabato allo stadio, ma ho visto Juve-Inter in TV e ho letto i giornali e mi sono vergognato da juventino per i cori contro Balotelli. Ho 80 anni compiuti, di partite ne ho giocate tante, le ho date e le ho prese, parolacce se ne sono sempre dette, ma lo sport non è stato mai maltrattato come adesso. E non è che il tifo ai miei tempi fosse poco acceso, anzi su certi campi ti veniva la febbre al pensiero di entrarci. Quando arrivava il derby con il Torino, per tutta la settimana precedente ci stavamo alla larga, noi e loro. In campo non ci conoscevamo, gli spettatori urlavano di tutto, a noi e alle nostre mamme, ma devi morire non si era mai sentito gridare in nessuna curva. Passata la domenica del derby, io facevo gruppo con Bacicalupo, Rigamonti e Martelli, quelli del trio Nizza. Eravamo amici e mangiavamo insieme da Tolmino, nella strada dove c'era addirittura la sede Granata. Il bello dello sport è questo, cercare con tutte le forze di vincere, sfottersi anche, ma da uomini veri. E poi cosa c'entra il colore della pelle? Oltretutto quel ragazzo è nato in Sicilia, è italiano come i miei nipoti. Io il ricorso contro la squalifica non l'avrei fatto. Certo, una giornata di campionato a porte chiuse è una condanna dura. Non è la prima volta che il razzismo entra negli stadi ed è la prima volta in Serie A che la pena è tanto grave. Non sono soltanto i tifosi della Juventus a urlare slogan orribili e la società si è scusata, ma non mi sento più contento perché anche altre tifoserie, compresa quella dell'Inter, si sono comportate in modo vergognoso. Bisogna cominciare a dire basta perché il razzismo è una brutta bestia. I tifosi di qualunque squadra devono sapere che certi comportamenti non si possono accettare. E sia chiaro, deve valere per tutti. Il titolo di questo intervento di Giampiero Boniperti è «Io non avrei fatto ricorso». Il mio commento è che nella storia della Juventus, come nella storia di tutte le società, ci sono i giganti e ci sono i pigmei. Provate voi a distinguere chi è gigante e chi è pigmeo tra Boniperti e Lippi, per esempio, vista la fattispecie. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, senza ombra di dubbio un gigante Giampiero Boniperti. Beh. Io fino a questa mattina provavo vergogna di essere un tifoso della Juventus, un innamorato della Juventus, non un tifoso, un innamorato. Leggendo Giampiero Boniperti, le confesso, mi sono anche commosso e sono ritornato ad essere un tifoso della Juventus innamorato, perché la storia è questa e noi siamo questi, siamo Giampiero Boniperti. Volevo solo dire una cosa, molto breve, dottor Garanzini, mm-hmm. e poi sapere la sua opinione. Io dopo di domenica, avendoli sentiti subito in televisione i cori vergognosi, ho deciso di tenere sveglio mio figlio e di dire a mio figlio che cosa vuol dire razzismo e che cosa invece vuol dire comportarsi nell'ambito dei valori della tolleranza, soprattutto nello sport. Questo perché non penso che noi dobbiamo rassegnarci a questa situazione, alla società come oggi si presenta e come si presenta nel mondo sportivo. Infatti io non condivido affatto, alcuni radioascoltatori ieri, avantieri lo hanno detto, la presa di posizione di coloro i quali si distanziano, dicono non voglio più saperne di calcio, essere tifoso di Juve, di Roma, eccetera. No, dobbiamo esserci e restringere gli spazi a questi farabutti. Per questo io ho deciso di contribuire nel mio piccolo, di tornare allo stadio per poter denunciare e dire tutte le cose, le malefatte che in uno stadio di calcio avvengono, e nella cerchia degli amici di fare quello che posso. E credo che anche lei con questa trasmissione faccia molto. Cioè io l'invito a sapere la sua opinione, reagire e chiudere gli spazi, restringere gli spazi a questi farabutti. Non voglio più Marcello Lippi, allenatore della Juventus, per quello che ha dichiarato lui in questi giorni. Grazie dottor Garanzini. Grazie a lei Antonio, mi pare che non servano commenti, insomma le sue sono affermazioni nette che poi possono più o meno essere condivise, sono in piena sintonia con come la penso io. Boniperti presidente a vita, questa è la Juventus, scrive Luciano da Biella. Buongiorno, Lippi ha perso un'altra occasione per tacere, fatelo allenare che è già sin troppo, scrive Guido da Varese. Sentiamo Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, innanzitutto la ringrazio per la compagnia che mi fa tutti i giorni, visto che io vivo in auto per lavoro. Mi dispiace solo che la trasmissione è troppo corta, quindi me la godo per 50 minuti e poi si riprende il solito tran tran. Volevo solamente dire questo, io sono un tifoso della Juventus e per quello che è successo 3 anni fa la Juventus ha avuto una punizione, molti possiamo giudicare se è troppo grande, troppo piccola, comunque ha avuto una sua punizione che ha fatto, adesso di nuovo in Serie A, fa il suo campionato. Io l'unica cosa che noto è che ci sono un po' delle situazioni un po' strane attorno a questa squadra, perché per ritornare al gol del Genoa, che secondo me è stato abbastanza imbarazzante al punto che l'arbitro dopo per essersene accorto ha dato un rigore inesistente alla Juventus, e per me quello e ha evitato di espellere Nedved. Ha ragione, però non è fatto out. Che quello al regolamento di calcio è un gol del Genoa da non poter dare, perché lui ha fischiato, quindi non c'è dubbio. E poi anche da questa punizione qui, io adesso non so se è razzismo, se è come dice Lippi, magari, perché in effetti è anche strano che magari molti tifosi, giocatori di colore della propria squadra o di altre squadre non li fischiano, ne fischiano solo alcuni. Però come ha letto lei prima di Boniperti dice, dall'articolo che ha letto lei, adesso il calcio è ammalato, non è ammalato sabato sera. Quindi io adesso voglio vedere, la Juventus ha avuto una punizione grossa ed è giusto forse che ce l'abbia avuta, vediamo se però d'ora in avanti sarà poi così davvero per tutti, perché lei si ricorderà un Inter. Beh, io immagino che una cosa del genere non possa che fare precedente, non immagino, ne sono assolutamente certo. Comunque ho l'impressione che lei non abbia colto esattamente lo spirito di Boniperti. Se vuole più tardi provo a rileggerglielo. C'è un altro ascoltatore in linea ancora, Renato da Roma, poi passiamo al capitolo internazionale. Dica Renato, buongiorno. Buongiorno, ho chiamato ma l'intervento mi è stato anticipato da Lippi, perché sono completamente d'accordo con Lippi. Cioè nel senso che secondo me si è parlato troppo, abbastanza in alcuni casi a sproposito, di questione razzista e razziale per quanto riguarda la vicenda di Balotelli, senza valutare che a mio avviso Balotelli, essendo un giocatore, diciamo la verità, abbastanza insopportabile, è stato oggetto di quei cori soltanto con la volontà di ferirlo sostanzialmente, ma non credo che le persone che abbiano fatto quei cori siano razziste. Il problema è lo strumento inaccettabile utilizzato per offenderlo, perché purtroppo non c'è la sensibilità, la cultura, la buona educazione di capire che se si vuole manifestare dissenso verso certi comportamenti non la si può porre sul piano razziale, Quello è il problema. Se ha detto poco. No, è vero, siamo d'accordo. È una cosa gravissima, senza dubbio. Ma parlare di cori razzisti come se quei cori siano espressione di una società che attacca determinati personaggi per il colore della pelle, secondo me è fuori luogo. Ma secondo me è stata una volontà di ferire una persona che oggettivamente ha dei comportamenti sbagliatissimi. Sì, sì, certo. Il dito e la luna, ne parlavo ieri. Vale per lei, vale per Lippi, vale per una gran parte, intendiamoci, di opinione pubblica che non a caso ha trascinato questa deriva fino al punto in cui siamo arrivati, e la trascinerà oltre se continueremo con i distinguo, a parer mio. Boccata d'ossigeno, robusta, per cortesia. Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno Gigi, mi dà una responsabilità grande, ma credo che quello di cui parliamo sia già una bella boccata d'ossigeno. Sì, sì, ti do una responsabilità grande perché grande, enorme, è stata un'altra partita inglese, cioè ormai il 4-4, comunque i risultati di questo, i 4-2, quello che è, di altissimo livello spettacolare sono diventati, non dico la norma, ma quasi in Inghilterra, adesso lo sono addirittura in campionato, non più soltanto in Coppa. Quello che hanno combinato ieri sera il Liverpool da una parte e Arshavin dall'altra, credo che valga la pena di essere raccontato a chi non l'ha visto. Sì, dici bene, perché da una parte c'era il Liverpool e dall'altra parte c'era Arshavin, nel senso che per tutta la partita Arshavin è stato veramente una spina, ma non nel fianco di più, perché insomma, segnare 4 gol in trasferta, segnarli su un campo come quello del Liverpool, soprattutto con una squadra dimezzata dal punto di vista della presenza qualitativa, mancavano Van Persie, Adebayor, mancavano un sacco di giocatori in difesa, insomma è un Arsenal che già di fatto, anche nelle parole di Wenger alla vigilia, sta pensando alla semifinale di Champions League dopo aver perso dal Chelsea la semifinale di FA Cup, quindi insomma, diciamo che l'Arsenal, messo al sicuro il quarto posto, deve solo preparare la semifinale di Champions League ed eventualmente la finale. Ebbene, ieri ne è uscita una partita fantastica con il Liverpool che attaccava a testa bassa. A me ha ricordato George Foreman contro Muhammad Ali a Kinshasa a metà anni 70, perché era veramente un peso massimo che continuava a picchiare con una forza e con una violenza, ovviamente una violenza buona, una violenza positiva, l'avversario, che si difendeva, che ogni tanto incassava, ogni tanto piegava le ginocchia, ma poi colpiva in contropiede in una maniera fantastica. Il 4-4 è il risultato, è la serie anche di alcuni errori, nel senso che è evidente che il risultato, quando supera i 2-3 gol fatti o subiti, ha sempre una componente nella quale una parte sbaglia. Basti vedere la partita di Anfield tra il Liverpool e il Chelsea, nel quale i portieri hanno avuto delle responsabilità pesanti, ma tutto questo negli occhi del tifoso, negli occhi di chi guarda una partita senza le lenti deformanti del tifo, passano in secondo ordine, perché le emozioni sono state talmente superiori all'analisi dell'errore che tu hai passato un'ora e mezza divertendoti veramente tanto. Credo che non ci siano dubbi su questo. 4-4 in Premier League tra Liverpool e Arsenal. Adesso arriverà la risposta del Manchester, ma sarà a scoppio ritardato, perché mi pare che abbia rinviato di 2 settimane la sua partita. Sì, perché il Manchester United in questo momento deve recuperare 2 partite, di fatto quella col Portsmouth e quella con il Wigan. Quella con il Wigan è stata posticipata 2 settimane, quella con il Portsmouth è dopodomani. E questa sera giocherà il Chelsea contro l'Everton, che anticipano la finale di FA Cup, che si svolgerà il 30 maggio a Wembley. L'Everton, che ha battuto il Manchester United ai rigori domenica nella seconda semifinale di FA Cup, ha impedito anche solo di pensare che in 3 giorni potessimo vedere 2 finali con le medesime squadre, cioè avremmo potuto vedere a Roma la finale di Champions League tra Chelsea e Manchester United e a Wembley la finale di FA Cup, certo, tra Chelsea e Manchester United. Diciamo che un minimo di leggerezza di Ferguson nel lasciare a casa un po' di titolari e comunque la bravura dell'Everton ha impedito anche il pensiero. Poi è chiaro che Chelsea e Manchester United prima devono battere Arsenal e Barcellona per andare in finale, ma comunque insomma c'era anche questa evenienza. Mentre noi pensavamo ci si divertiva a vedere Liverpool e Arsenal, a Madrid c'erano invece momenti quasi drammatici, se vuoi che facciamo già direttamente il salto tra la Premier League e la Liga Spagnola, perché In contemporanea il finale di Real Madrid-Getafe è stata un'altra di quelle pagine che, a parer mio, credo di trovarti d'accordo, riconciliano veramente con il calcio. Sì, riconcilia con il calcio, già di un segno più vicino a noi comunque, rispetto a Liverpool-Arsenal. Liverpool-Arsenal sui nostri campi secondo me ce lo sogniamo. Il paragone con Juventus-Inter di sabato sera è impietoso ed è avvilente. Per Real Getafe è una partita che adesso ci racconti anche quello in finale, perché perderla è stato veramente un delitto, però si avvicina già di più alle cose di casa nostra, mi pare. Sì, si avvicina intanto come tensione che si vive in campo, dove i giocatori se le sono abbastanza date, diciamo anche troppo, anche un po' sugli spalti. Devo dire che i tifosi del Real Madrid a un certo punto hanno perso la pazienza. Occorre fare un passo indietro, intanto ricordare che il campionato spagnolo questa settimana fa lo spezzatino su tre giorni, cioè ieri sera ha giocato il Real, questa sera gioca il Barcellona e domani giocano le altre. Il Real Madrid aveva 6 punti da recuperare, ospitava il Getafe che negli ultimi anni è stata veramente una zanzara fastidiosa, di quelle che non solo ti pungono ma che rondano, sibilano per tanto tempo nella notte e tu non le vedi e cerchi di cacciarle, perché il Getafe spesso batte il Real Madrid. All'andata l'ha battuto 3-1, lo faceva anche quando il Getafe era allenato da Schuster, ed è lì che la dirigenza madridista si è abbastanza innamorata di Schuster, salvo poi pentirsene la stagione successiva. Ebbene, il Getafe vince 2-1 a 2 minuti dalla fine. Il Real si straccia le vesti naturalmente in avanti, lasciando praterie per il contropiede, ma insomma c'è un calcio di posizione che batte Guti dai 18-20 metri. Guti segna sul palo del portiere, però lo fa con una grande traiettoria, potente, precisa, bella, insomma è un bel gol. Diciamo che il 2-2 comunque non riapre la liga, non la tiene aperta, diciamo che l'1-2 l'avrebbe chiusa definitivamente, sì. Il 2-2 diciamo che teoricamente la tiene ancora aperta. Due azioni dopo, il Getafe in contropiede con il Real totalmente buttato in avanti, entra in area con Casquero e Pepe, il difensore centrale del Real Madrid, non trova di meglio che sbilanciarlo con una manata sulla spalla, quindi lo butta per terra, Casquero cade, Pepe frustratissimo non solo tira un calcio nel sedere a Casquero che è per terra, ma addirittura gliene tira un altro nella schiena, quindi il rosso che già c'era diventerà secondo me anche una bella squalifica per Pepe, che viene addirittura allontanato dai suoi compagni perché era talmente nel pallone questo ragazzo. Quindi il Getafe al 90esimo ha il calcio di rigore per di fatto vincere, quantomeno andare in vantaggio 2-3, Casquero si inventa di fare un cucchiaio, ma lo fa in una maniera totalmente sbilenca e Casillas non ha nemmeno bisogno di tuffarsi, cioè piega leggermente una gamba e la para con una mano, cioè una roba veramente avvilente per l'attaccante. Il rilancio di Casillas, mia tua, la palla resta lì sulla tre quarti del Real Madrid, arriva Higuain che scarica una botta terrificante le spalle del portiere e il Real Madrid vince 3-2. In questo momento ha 3 punti di distacco, il Barcellona gioca stasera contro il Siviglia, non una partita facilissima, e il 3 di maggio ci sarà Real Barça, quindi Liga viva e vegeta, molto vegeta. Esattamente come il campionato inglese, anzi parecchio più del campionato inglese. Un minuto circa per dire quanto sia aperto, ma aperto in un modo che soltanto un mese fa sarebbe sembrato fantascienza, quello francese invece di campionato. Eh sì, perché il Marsiglia continua a vincere, il Bordeaux ha battuto nello scontro diretto il Lione, in questo momento il Lione è quarto e gioca col Paris Saint-Germain sabato e rischia addirittura di uscire dalla Champions League, in questo momento sarebbe fuori. Tutto è successo in casa Gourcuff, perché Gourcuff padre, l'allenatore del Lorient, ha perso col Marsiglia, Gourcuff figlio ha vinto contro il Lione con il Bordeaux e in questo momento Marsiglia e Bordeaux sono lì a giocarsi il titolo, il Lione non è ancora fuori. Perché la classifica in questo momento non lo condanna ancora, però è certamente incredibile come una squadra che ha Benzema in campo in questo momento stia arrancando, è a 60 punti, il Marsiglia a 64, il Bordeaux a 62, ma ripeto, se non dovesse vincere o addirittura dovesse perdere dal Paris Saint-Germain verrebbe scavalcata, insomma ricordiamo che la Francia non ha 4 squadre che vanno in Champions League, quindi il Lione rischia veramente di restare fuori dalla prossima. Grazie Fabio Tavelli. A voi buona giornata. Grazie per questo aggiornamento e per questo racconto di due insomma, grandi partite, diverse tra loro a modo loro, ma le due grandi partite comunque che non tutti hanno potuto vedere ieri sera e di cui questo era il succo e valeva la pena riferirlo. Torniamo tra poco. L'episodio di Cori contro Balotelli a Torino, secondo Mourinho, non è razzismo, ma solo un modo ignorante di dimostrare dissenso per un avversario antipatico perché ti fa gol. È successo in tanti stadi, anche in casa nostra. La differenza tra i 3 o 4 mila di Torino e i 500 avversari di San Siro non so quale sia, ma comunque non è la prima volta. Mourinho rifiuta l'idea che l'Italia sia un paese razzista, non lo è, e non lo è nemmeno il calcio italiano. Non mi piace nemmeno l'idea di una partita a porte chiuse, perché metà delle motivazioni per giocare rimangono fuori con il pubblico. Semifinali di Coppa Italia, stasera il ritorno della Juventus da 1-2 per la vittoria della Lazio all'Olimpico, domani sera quello dell'Inter da 0-3, il risultato incredibile quasi ottenuto dalla Sampdoria all'andata di Marassi. La vigilia proiettata già sul futuro dell'allenatore della Lazio, Delio Rossi. Se un futuro di un allenatore è visto su una partita, significa che c'è sbagliato qualcosa. Cioè, io penso che il lavoro di un allenatore si vede nell'arco del tempo, non una partita se va bene o male. Io sto bene a Roma, sto bene a Roma. È una città bellissima, è una città solare, e questo mi piace dove c'è il sole, non mi piace dove c'è la pioggia, per questo forse non andrò mai a allenare all'estero in certe piazze. Sul discorso di Bergamo lo state dicendo voi, io ne piglio atto. Bergamo, io sono stato bene, mi hanno voluto bene, e non si sa mai che un domani non potrò allenare Bergamo. Questo non significa che sia in un immediato futuro. Beh, è una piazza che si è praticamente liberata. Più tardi magari sentiremo anche le parole del giovane presidente dell'Atalanta Ruggeri sul divorzio ormai consumato, sulla separazione non tanto consensuale consumata già con Del Neri, non tanto consensuale nel senso che l'Atalanta avrebbe voluto trattenere Del Neri, Del Neri a richieste di società più, insomma, con altri traguardi o perlomeno con altri teorici traguardi, e mi pare che tutto questo, per tutto questo siamo nel legittimo. Abbiamo sentito la vigilia di Delio Rossi, sentiamo quella di Ranieri. La sentiamo tanto, è il giusto, sappiamo che affronteremo una squadra molto carica, ha avuto dei comportamenti un po' altalenanti la Lazio, perché veniva, se non ricordo male, da 3 sconfitte consecutive, poi invece ha vinto il derby e è andata a vincere anche a Genova, sta in un buon momento di forma, per cui ci teniamo ad andare in finale. È un obiettivo. È un obiettivo e vogliamo raggiungerlo, ci teniamo, ne abbiamo vinte 9, questa sarebbe la 10ª se riuscissimo ad arrivare in finale e naturalmente a vincerla, però come dico sempre pensiamo al presente e pensiamo alla partita di domani. Pensiamo alla partita di domani. Quindi questo vuol dire che l'intervista era di ieri. No, è soltanto, ho avuto un attimo di sbandamento perché stavo leggendo la partita di stasera. Tant'è vero che Mauro, un ascoltatore di Torino, scrive: sto percorrendo la A1 in direzione nord e sto vedendo molte macchine cariche di tifosi che mentre viaggiano fumano, e vabbè, è per questo non è ancora reato, Mauro, mi faccia la grazia, e che bevono birra anche guidando. Beh, insomma, questo già magari è diverso, così arriveranno allo stadio già belli carichi e poi non stupiamoci se eccetera eccetera, ma infatti non stupiamoci più di nulla, questo è un altro discorso. Avete sentito l'intervista a Ranieri, ce n'è una parlata invece che poi di cui vi leggerò alcuni frammenti dopo un paio di ascoltatori, su cui affrontava temi di ben altro, di ben altra attualità, insomma, sul caso di questi giorni, e li affrontava con molto coraggio e devo dire con insomma, un paio di passaggi a cui sinceramente si fa un po' fatica a credere, ma insomma, poi le valutiamo insieme. Roberto da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, sempre dica. Complimenti per la sua grande obiettività e professionalità. Grazie. Io sono intervenuto altre volte, volevo dire una cosa molto veloce sulla partita a porte chiuse della Juve. Secondo me sarebbe una buona idea farla disputare a porte aperte, devolvendo completamente l'incasso fino all'ultimo centesimo ai terremotati dell'Abruzzo. Sì, potrebbe. E mi piacerebbe che la soluzione disasse, perché trasformeremo questa brutta vicenda, comunque se ne pensi, al di là di tutte le opinioni, in un fatto positivo di vicinanza a quei ragazzi che stanno soffrendo. Sì, Sì, sì, è la teoria del perdono immediato. Io sì, è una teoria come un'altra. Guarda. Sì, sì, c'è un ascoltatore, un altro ascoltatore, si chiama Mauro Ceriani, che ha scritto invece quest'altra, che ha dato quest'altra interpretazione sulla punizione. Dice: sono Mauro, tifoso juventino, non entro né nel merito della squalifica né nel caso Balotelli, ma secondo me sarebbe stato meglio squalificare il campo in occasione del prossimo Juventus-Inter, quando l'incasso perso sarebbe stato più consistente e si sarebbe ripresentata l'occasione di rincontrare sul campo il giocatore. Anche per lasciar passare più tempo e poter riflettere meglio. Quindi lei è per, diciamo, accorciare i tempi, quest'altro ascoltatore invece è semmai per allungarli. Valentino, provincia di Bergamo, buongiorno. Grazie, buona giornata. Dica. Dunque, io vorrei spendere due parole per Balotelli. Ma un ragazzo di 18 anni che ha voglia di giocare, se mette fuori la lingua è maleducato. I grandi senatori, quando Balotelli gioca a pallone, che punta il giocatore e va via, il senatore dice: adesso la prossima volta ti rompo una gamba. E quello lì è abituato a fargli un gestaccio, è maleducato. Vediamo dei grandi senatori giocare a calcio, ne fanno di tutti i colori, fanno dei segnalini, mandano a fanculo l'arbitro, quelli sono protetti. Un ragazzo di 18 anni che ha voglia di vivere, di giocare, già gli stiamo segando le gambe perché diciamo che è maleducato. Non gli seghiamo niente, Valentino, proviamo a insegnargli l'educazione, avendo fin qui clamorosamente fallito. Guardi, c'è una cosa che a me ha dato un fastidio cane l'altra sera di Balotelli proprio, e che secondo me non ha molte giustificazioni nonostante il trattamento immondo che gli è stato riservato, che è stato l'indolenza con, questo il pubblico allo stadio non ha potuto vederlo, l'abbiamo visto noi dalla TV, l'indolenza con cui è entrato in campo con 2-3 minuti di ritardo, che tra l'altro ha costato una multa all'Inter. Cioè, secondo me c'è proprio in quello l'atteggiamento del bullo anche un po' disadattato, io credo. Poi è chiaro che sai cosa gli hanno già urlato, immagini cosa gli urleranno dopo, eccetera, e puoi anche pensare che in realtà sia un modo di, come dire, rallentare prima di tornare sulla gogna, no? Prima di tornare a sentirsi quelle piacevolezze che già per 5 volte, perché 5 cori nel primo tempo e 5 nel secondo, si legge nella motivazione ufficiale, nel rapporto. Quindi, però l'aria, come dire, strafottente, bullesca, non era quella di chi dice non ho voglia di andare, no, era quella di chi comunque indugia in una maniera plateale, ripeto, è un po' bullesca. D'altra parte, c'è chi sostiene, no, che è tutta colpa di che è tutta colpa di Balotelli, lei sostiene invece che Balotelli è una povera vittima. Io credo che dobbiamo stare, cioè, credo che ci sia una parte di verità da questa e da quell'altra parte, a patto di non fare confusione tra gli insulti o il dissenso e il razzismo, che è tutta un'altra cosa. Adriano, per esempio, Adriano Battistuta, che scrive da Udine: io penso, al contrario di molti suoi ascoltatori, che non è Balotelli a dover cambiare il suo carattere per non essere più insultato con cori razzisti, ma al contrario, si deve fermare questa vergogna per non dare più alibi al giocatore per il suo comportamento. Questa, secondo me, è la vera chiave di lettura. Perché se un giocatore sul campo si comporta male, esiste sempre il buon vecchio fischio che non offende, ma fa capire che stai facendo qualcosa di sbagliato. E nonostante io sia interista, fischierei Balotelli in quella circostanza. Io condivido in pieno questo, l'avrei fischiato, e fossi stato un dirigente accompagnatore all'Inter, l'avrei preso per le orecchie quando è tornato in campo in quella maniera l'altra sera. Però siamo sempre lì. Vediamo di mantenere la proporzione tra gli errori di uno e le inciviltà degli altri. Mi pare ci dovrebbe essere una differenza non difficilmente riscontrabile anche da parte di Lippi, di Simoni e di altri. Luca dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Io volevo portare la mia personale esperienza sotto l'aspetto non tanto del razzismo, ma della maleducazione in generale. Siccome ho fatto l'arbitro per 4 anni, soprattutto a livello giovanile, partendo dai giovanissimi fino ai juniores, poi sono arrivato in terza categoria, poi ho dovuto fermarmi per problemi fisici miei personali, e porto un'esperienza purtroppo molto negativa sotto l'aspetto dell'educazione, non dei ragazzi ma dei genitori in tribuna. Quindi Balotelli è un ragazzo di 20 anni, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter o non so dove, ma perché in tribuna ci sono genitori, purtroppo lo dico, che quasi aizzano dalla tribuna. È una cosa che io non mi sarei mai aspettato quando ho fatto il corso d'arbitro, e quindi questo è un problema che nasce da molto molto lontano. Non è tanto un problema di Juve-Inter, ma un problema Non so, livello di campetti di periferia, lo so, volevo la sua opinione. E ma la mia opinione è che dobbiamo l'abbiamo... imparare. Mi scusi, finisco poi la sì, parlare. Prego, rapidamente. Mi scusi, sì, sono proprio i genitori che dovrebbero educare i figli e invece sono proprio loro che i primi a comportarsi male. Poi non ammettiamoci, se poi non... i ragazzi vanno in tribuna. Non c'è dubbio. Ha perfettamente ragione, intendevo soltanto dire che è una, questa è una denuncia, una constatazione purtroppo amarissima che facciamo non una volta sola a settimana, che facciamo spesso perché arriva a testimonianze vostre, perché sono cose che purtroppo si sanno, non sono nemmeno inedite. Senta quest'altra. Davide Colombo scrive: sono un abbonato del Milan, domenica sera ho assistito allo spettacolo delle due curve, Milan e Torino, prima gli ultragranata a intonare Uccidete Kakà, poi gli rimpettai milanisti a dedicare un Devi morire a Bianchi del Torino dolorante a terra. Non crede che cori del genere debbano comportare sanzioni similari a quelle del caso Balotelli, con rischio di giocare un buon 90% di partite a porte chiuse, con stima Davide Colombo da Milano. Guardi, episodi come questi sono personalmente sono quelli che da 6 anni mi vietano di portare i piedi in uno stadio a qualsiasi prezzo, a qualsiasi cifra. Parlo di stadi italiani. Torniamo in onda, vi dicevo di un'esperienza personale, insomma, che 6 anni fa ho deciso un giorno che ho sentito quello che fino ad allora mi era capitato, evidentemente, certo, di sentire, sì, ma non in maniera tale da ferire un minimo di sensibilità. L'ho sentito una sera in una partita di Coppa Italia a San Siro da parte dei tifosi interisti contro Totti e Cassano, e da quel giorno ho deciso che per me lo stadio era vietato. Non mi manca sinceramente, ma la differenza tra quello o tra i cori di cui leggo in questa mail, Cacao, i Devi morire a Bianchi eccetera eccetera, e quello che hanno fatto l'altra sera a Balotelli, secondo me la differenza è che se me ne fossi andato dallo stadio di Torino l'altra sera avrei anche vomitato, cosa che invece quella volta almeno non mi accadde, non mi sarebbe accaduta per questi, diciamo, insulti di routine, per queste abiezioni di routine da parte di un pubblico che secondo me da anni non è più possibile condividere, cioè proprio non è più possibile condividere fisicamente l'esperienza di uno stadio. Ma questa è una posizione molto, molto personale, evidentemente. E comunque Marco Lucchetti, per esempio, scrive, altra mail, ma ripeto, ormai sono a centinaia: la faccenda dei cori più o meno razzisti contro Balotelli mi ricorda quella contro il teppismo allo stadio, e cioè la famosa abusatissima frase: un teppista non è un tifoso. E invece, solo accettando il fatto che un tifoso possa essere un teppista, si può combattere il teppismo allo stadio. E indipendentemente dalla vera natura di quei cori, solo considerandoli razzisti si può combattere il razzismo. Firmato Marco Lucchetti. Il ripasso di storia di oggi, Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 aprile 1981. Termina in semifinale contro il Real Madrid di Vujadin Boskov l'avventura dell'Inter di Eugenio Bersellini in Coppa dei Campioni. I nerazzurri però sfiorano l'impresa di rimontare il 2-0 subito al Santiago Bernabeu. A San Siro finisce 1-0 con una rete del libero Graziano Bini al 57esimo. Nel finale il portiere degli spagnoli Agustin salva il risultato su una conclusione a colpo sicuro di Altobelli, regalando di fatto al Real, dopo 15 anni, l'accesso a una finale di Coppa dei Campioni. Ma a Parigi vincerà per 1-0 il Liverpool grazie a un diagonale del terzino Alan Kennedy a 8 minuti dal termine. Beh, anche questo era una marcord interessante per un 22 aprile. Certo, il 22 aprile è anche una data che Nicola Filippone si è offerto di ricordare. Insieme abbiamo concordato che un programma sportivo, insomma, non può poi permettersi di volare troppo alto, ma insomma, oggi è il centenario della nascita di Indro Montanelli, che per me personalmente è stato il vero maestro che ho conosciuto nel corso della, e frequentato nel corso della mia carriera. Allora, credo che abbiamo trovato stamane, con l'aiuto di Flavio Suardi, dei suoi file audio in occasione di Giri d'Italia che lui aveva seguito, perché insomma aveva fatto incursioni anche nello sport, soprattutto in gioventù. Però ho trovato in particolare un frammento di Montanelli in ambito calcistico dedicato a Enzo Bearzot, scritto pochi anni prima della sua morte. Scritto, Montanelli è morto nel 2001, questo è del 97, quindi ha una dozzina di anni oggi. Riferito a Berdodic, che poi oggi, scriveva Montanelli, che poi oggi il mondo del calcio abbia accantonato Enzo Berzot non mi stupisce affatto. Non solo perché anche in quel campo parlare chiaro e rifuggire dai compromessi non aiuta a far carriera, ma soprattutto perché il pallone dei giorni nostri ha preso strade molto diverse dalla sua. Lo dice uno che da studente in curva non si perdeva una partita della Fiorentina e oggi non mette piedi in uno stadio da tempo immemorabile. Troppo smaccatamente commerciale, troppo mercenario questo genere di spettacolo per coinvolgermi ancora. Lo guardo di tanto in tanto in TV, ne leggo per tenermi aggiornato, ma non c'è verso, non mi garba più come ai tempi di quel testone galantuomo di Enzo Berzot. Un frammento di Indro Montanelli del 97. Indro Montanelli avrebbe compiuto oggi 100 anni. Nicola ha chiamato da Taranto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vedo che siamo in ottima compagnia. Oltre a lei, Indro Montanelli, e io ho preso la stessa decisione da Taranto da tempo, da anni in memoria. Cioè proprio non riesco più ad andarci allo stadio, soprattutto adesso che ho due bambini e vorrei tanto portarli. Però la passione rimane. E mi meraviglia tutta questa sorpresa di fronte ai curi di Donè. Il mondo del calcio è governato da questi personaggi, lo stesso Lippi che si permette di pontificare dal suo ruolo di allenatore della nazionale, dovrebbe rappresentare tutti, invece farà sempre la rappresentazione di una parte. No, però Nicola, questo non lo può dire. Lippi ha espresso un'opinione e a domanda ha risposto. Questa era un'intervista che gli hanno fatto e se lui la pensa a quel modo, io non condivido la sua opinione, lei invece pure, però non è che ha pontificato, ha risposto a delle domande. Sono spesso male nel termine, però anche il suo intromettersi nelle trattative della Juve. Beh, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Ma non è il mondo del calcio, voglio dire Cannavaro che. Sì, ma non confondiamo l'etica col mercato. Se parliamo di mercato, mi sembra che il nostro commissario tecnico attuale sia sempre uno abbastanza presente sul pezzo, e questo è un capitolo. Però su altri capitoli avrà pure il diritto di esprimere un'opinione, soprattutto se gliela domandano. Questo. Però vede, il problema è proprio etico, è proprio, mi consente di dirlo, perché io lo metterei al primo posto al giorno d'oggi. Non esiste più l'etica nello sport, nel calcio soprattutto, perché vede, prima di io sono tifoso del Milan, premetto, non è che lo guardo con tanto amore in questo periodo, anche se mi ha dato tante gioie, però la passione rimane, anche se non voglio dire, però non condivido tante di quelle cose della mia società, diciamo, tra virgolette. Sì, sì, d'accordo, però non condividere un conto. Lei ha parlato di etica, sull'etica potremmo andare avanti per settimane per mesi. La battaglia, guardi che la battaglia di questi giorni è soltanto una battaglia etica. È una battaglia di principio, perché se lei le ripeto, io allo stadio non ci vado, per cui a Balotelli o a chi che sia, per quel che riguarda me personalmente, gli possono urlare quello che vogliono, anche perché vedendo le TV posso abbassare l'audio. Invece l'altra sera l'ho tenuto molto alto, perché qualcosa del genere mi immaginavo e bene ho fatto, perché è sempre bene sapere in che deriva si è costretti a vivere, no? Ranieri, cosa farà al prossimo coro razzista? Ha chiesto Maurizio Crosetti di Repubblica all'allenatore della Juventus. Chiamerò Del Piero, il nostro capitano, e poi il capitano della squadra avversaria e poi il quarto uomo. Anche l'arbitro, naturalmente, ci parleremo e prenderemo l'unica decisione possibile, fermarci. Anzi, prima faremo un altro tentativo. Quale? Gli domanda Crosetti. Ci sposteremo verso il settore da dove arrivano i cori e gli insulti, andremo sotto la curva o sotto la tribuna e faremo capire ai tifosi con i gesti e con le parole che sarebbe meglio smetterla. E se non capiranno, allora stop. Torneremo in spogliatoio, perché è il momento di farlo senza aspettare più. Qui è saltato tutto, il rispetto del prossimo in primo luogo e poi l'educazione. Un problema nazionale, sociale, non solo calcistico. Massimo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Frase molto tardiva, ma comunque non era questo che volevo dire. Ascolti allora, ascolti che le leggo un'altra parte che io ho faticato a credere, però Ranieri è una persona per bene, quindi alla fine con un po' di fatica gli credo. Scusi Ranieri, sempre ai Crosetti, ma perché non avete fatto qualcosa già sabato sera? So che può sembrare incredibile, ma dalla panchina non mi sono accorto di niente. Sentivo il boato fortissimo e continuo, ma non riuscivo a distinguere le parole. A bordo campo, quando sei concentrato su altro, pensi alla partita. Vale per l'allenatore come per i calciatori. Eppure, domanda di Crosetti, i cori razzisti contro Balotelli sono ripetuti 10 volte. In certi momenti non riuscivo a distinguere neppure il fischio dell'arbitro, la risposta di Ranieri. Mi hanno detto che si è alzato pure un coro a favore di Antonio Conte, dunque contro di me. Ebbene, non ho sentito neanche quello. Io gli credo perché, ripeto, faccio fatica a crederlo, ma non vedo perché uno dovrebbe, una persona per bene come Ranieri, a differenza di altre, non vedo perché dovrebbe mentire su un aspetto di questo genere. Mi scusi se l'ho interrotta, dica Massimo. D'accordo, ma volevo cambiare argomento, poi una cosa breve, poi manca poco. Volevo una sua opinione su una cosa. La Coppa Italia, visto che è così bistrattata e ha così poco successo, vorrei sapere che cosa pensa dell'eventualità di fare come negli altri sport, tipo il basket, dove le prime 8 del girone di andata fanno la cioè sono qualificate per la Coppa Italia e poi fanno quarti di finale, semifinale, finale, perché ha molto successo negli altri sport questa formula. Non lo so, potrebbe funzionare anche per il calcio. Le chiedo scusa, è un momento in cui faccio fatica a far mente locale alle formule, abbia pazienza. Stefano, provincia di Ravenna, a chiudere rapidamente, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha definito Boniperti un gigante. Io sono sostenitore del Milan, non tifoso, sostenitore del Milan, per cui la storia della Juve è mille miglia lontana da me e dalla mia storia calcistica. Non so di cosa possa essere gigante un signore che ha fatto festeggiare, nel modo in cui sappiamo, la Coppa dei Campioni vinta all'Eisel a suo tempo con quello che era accaduto 2 ore prima della premiazione. Non l'ha fatta festeggiare, Stefano, non diciamo idiozie se possibile. L'ha tenuta in bacheca e questa è una colpa che non si cancellerà mai dal mio punto di vista, ma non l'ha fatta festeggiare perché questa sarebbe un'istigazione quasi a delinquere addirittura visto quel momento che lei non può permettersi di attribuire a Boniperti. Guardi, io ho cenni implacabili dalla regia. Stefano, se Centralino l'ha richiamata significa che noi, avendo la richiamata, abbiamo il suo numero. Non vorrei che lei pensasse che è un'interruzione di non pubblico, ma insomma comunque di servizio. Riprendiamo da qui domani. Grazie intanto a Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio a tutti.